casa sono fuggita, stanca di questa mia vita, delle sue mani che affondano, offendono, offendono e affondano in me. E c'erano le stelle a ricamare il cielo, ed io come uno scemo non presi la sua mano. Scendevano le lacrime sul viso suo di rosa, ed io che proprio scemo, ero già un fiasco di vino e no.